30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Potrebbe essere rivoluzionario, cambiare ogni cosa, ha scritto una fonte del governo degli Stati Uniti. Potrebbe spalancare le porte a una nuova era dell'ordine internazionale. Potrebbe mettere fine al nostro modo di intervenire, ha riferito un funzionario di alto grado in pensione. Ciò di cui parliamo e di cui parlano questi ex o attuali esponenti dei più alti gradi dell'esercito è qualcosa di cui non avete mai sentito parlare prima. Buonasera da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento del sabato con 30 minuti in cronaca. Quello di cui parliamo questa sera è un'arma, un missile cinese denominato DF-21D. Il suo nome completo è Dongfeng. Dongfeng significa vento dell'est. La notizia della messa a punto di questa versione di un missile presente nell'armamentario cinese ormai da qualche anno suscita grave preoccupazione a Washington. Questa sera cerchiamo di capire perché e ci facciamo aiutare da un esperto di armi e difesa, da Andrea Nativi, direttore di Reed, la rivista italiana Difesa. Buonasera Andrea Nativi. Allora, c'è davvero da preoccuparsi. Allora, innanzitutto, che cos'è Dongfeng 21D? Sostanzialmente è una versione speciale di un missile balistico a medio raggio, un MRBM, mobile, quindi è montato su camion e se ne va a spasso, che i cinesi hanno sviluppato nella prima versione, addirittura è diventato operativo nell'83, la seconda nel 96 e poi via via l'hanno migliorato. Ma la novità è che questo missile, invece di essere utilizzato con il suo ruolo primario, ovvero portare una testata nucleare o una testata convenzionale contro un obiettivo terrestre, è stato ottimizzato nella nuova versione per attaccare non solo un bersaglio mobile, che è già difficile, ma un bersaglio mobile ancora più difficile, ovvero sia una portaerei e il suo gruppo da battaglia, ovviamente una portaerei americana. Ovviamente una portaerei americana. Dunque, quando parliamo di portaerei, parliamo di navi di stazza, di dimensione impressionante, oltre 300 metri, eppure difficili da colpire. Perché? Ma intanto perché stanno in mare. E quindi beccare un obiettivo che si muove tipicamente in alto mare non è facile. Infatti il primo problema che hanno i cinesi è scoprire dove sta la portaerei. Poi seguirne la rotta, la portaerei si muove anche in fretta, nel senso che la sua velocità massima è superiore ai 30 nodi. Considerando il tempo che intercorre dal momento della scoperta al lancio del missile, all'arrivo del missile sul bersaglio, vuol dire avere una grande precisione e aggiornamento delle informazioni, e questo in realtà è il punto debole del concetto cinese. Poi, una volta che il missile è arrivato, bisogna cercare di centrare la portaerei, che sembra grossa quando la si vede da vicino, ma vista dall'alto o per esempio quando ci si atterra, sembra proprio una cosa microscopica. Ecco, microscopica non è, ma pensate solamente cosa vuol dire fare un'accostata violenta a 30 nodi, di quanto in pochi secondi può variare la posizione della nave e quindi la possibilità di colpirla. La Cina, naturalmente, si parla di un'arma cinese, si parla del Mar della Cina e di una zona strategica, di una zona, non dimentichiamolo, che nel corso degli ultimi anni è diventato anche il cuore dello scambio economico, delle rotte commerciali, naturalmente non solo militari. Intorno, solo per citare i paesi più importanti, più vivaci, a nord la Russia, poi la costa cinese, oltre 1800 chilometri, poi naturalmente il Vietnam, ma a largo anche la Corea, anzi la penisola coreana con la Corea del Nord e del Sud, e a largo realmente il Giappone. Insomma, una zona di grandi interessi. Che ruolo svolgono le portaerei americane in quella parte del mondo? Sono cruciali perché sono degli strumenti di proiezione di potenza per eccellenza, in quanto non si deve poi considerare solo la portaerei e il suo gruppo aereo imbarcato, che comunque sono una forza significativa, diciamo che equivale all'intera aeronautica di un piccolo medio paese, e quindi parliamo di un 90 macchine tra aerei ed elicotteri. Ma poi c'è il gruppo da battaglia che accompagna la portaerei, che vuol dire incrociatori, fregate, sottomarini nucleari. Ecco, il potenziale che può dispiegare un gruppo da battaglia centrato su portaerei è molto molto elevato. È un aeroporto mobile, quindi ti consente di andare a effettuare operazioni senza chiedere il permesso a nessuno. Se usi gli aerei basati a terra, o li metti in una tua base se hai le basi avanzate, oppure devi chiedere il permesso a un altro paese di farci arrivare i tuoi aeroplani. Con la portaerei no, e consideriamo che le portaerei americane per esempio supportano le operazioni in Afghanistan, anche se l'Afghanistan è tanto tanto dentro il continente, eppure i loro aerei, avendo il permesso di sorvolo per esempio sul Pakistan, vanno a operare in Afghanistan. Questo è il concetto, sono essenziali. Costano un patrimonio, perché un carrier group americano pensate che una portaerei della nuova generazione costa circa 6 miliardi di dollari tutto incluso, quindi rendetevi conto, ne hanno 11 gli americani al momento, può darsi che scendano a 10, ne hanno 11, delle quali normalmente almeno 6 o 7 sono per mare e operative. Insomma, 6 o 7 per mare significa 6 o 7 nuclei d'armi che possono essere dispiegati. Dicevi poc'anzi a 30 nodi, quindi anche piuttosto rapidamente in ogni parte del globo. Esatto, e non si sa dove sono, perché quando sono in alto mare, per seguirli o li segui con i satelliti se ce li hai, oppure li segui con lo spionaggio elettronico. Insomma, non siamo certo all'epoca delle Midway, ok, però ancora adesso dove stanno le portaerei non è proprio facile da scoprire. Ecco, Andrea Nativi, è ragionevole supporre che, non sappiamo dove sono, ma è ragionevole supporre che una o due portaerei siano costantemente tra la Cina e Taiwan? Diciamo che pendolano, adesso sicuramente ce n'è sempre una sotto il Pakistan, per intenderci, probabilmente ce n'è un'altra che gira dalle parti del Golfo, fuori dal Golfo, e ce n'è almeno una che gira tra Corea, gira appunto perché si muove, perché a 30 nodi all'ora vuol dire che la nostra barca fa quasi 50 km ogni ora, quindi ogni giorno si sposta, poi in genere hanno delle aree dove girano molto grandi e non è che girano a caso, sanno dove andare. Avvicinarsi alla Cina, ecco, lo fanno con una certa cautela, perché viene considerato immediatamente come una provocazione. Tra l'altro la Cina sta cercando a sua volta di costruire gruppi basati su portaerei. Il ruolo delle portaerei a questo punto dovrebbe esserci chiaro. Sono strumenti di estensione del potere militare, naturalmente, fino a quando non vengono minacciate da qualcosa di nuovo. Allora, Andrea Nativi, arriviamo al punto. Dongfeng 21D, perché fa paura? Di che si tratta? Perché è un missile balistico, quindi arriva con una traiettoria parabolica ad altissima velocità e quindi vuol dire che ha dei tempi di attacco che si misurano in pochi minuti. La gittata di questo aggeggio viene stimata tra i 1500 e i 1700 km, quindi di fatto a seconda di dove si mette il lanciatore, che è mobile e quindi difficile da scoprire e anche difficile da vedere la preparazione al lancio, puoi arrivare a battere fino al Giappone stesso e oltre, per dare un'idea. Questo missile ha tempi di volo per arrivare a bersaglio che possiamo dire intorno ai 12-15 minuti al massimo, quindi anche il tempo per organizzare la difesa è ridotto. È un bell'oggetto, nel senso che è un missile a due stadi, propulsione solida, pesa circa 15 tonnellate, lungo 12 metri con un diametro di circa 1,5 metri e trasporta una testata da 500 kg. Ecco, il punto interessante è questo, che in teoria lui porterebbe una testata nucleare, ma è chiaro che se uno lancia un missile a testata nucleare verso una portaerei americana, dopodiché siamo al conflitto nucleare totale. I cinesi evidentemente pensano di poter mantenersi sotto questa soglia usando una testata convenzionale o a multimunizioni, che è meno efficace perché con un'arma nucleare ti serve meno precisione e la potenza distruttiva è immensa, però fa sì che poi non succeda l'Armageddon con la risposta americana. Il problema che si crea è che se usi una testata convenzionale devi colpire con grande grande precisione e qui è un guaio. questo missile in qualche misura è ispirato a un vecchio missile balistico americano, il Pershing 2 degli anni 80, che come al solito i cinesi sono riusciti a cannibalizzare, insomma hanno avuto disegni, progetti, ok, e alcune delle soluzioni tecniche le hanno applicate. Secondo l'intelligence americana questo missile sta già facendo la fase del test preoperativo, quindi sperimentazioni e lanci, e dovrebbe essere operativo relativamente in fretta, cioè un paio d'anni. Nel 1996, alla vigilia delle elezioni appunto nell'isola stato di Taiwan, la flotta americana fu dispiegata proprio come messaggio chiaramente rivolto a Pechino contro l'ingerenza della potenza della terraferma, della madre patria, come dicono i cinesi, rispetto a Taiwan. La presenza di un missile di questo tipo cambierebbe le cose? Certo, cambierebbe enormemente lo scenario, perché a quel punto portare le portaerei sotto, quindi la distanza tra la costa cinese e Taiwan è limitata, mettere le portaerei lì vuol dire esporsi un enorme rischio, considerando anche che in prospettiva i cinesi avranno le loro portaerei, i missili da crociera a lungo raggio e il missile ammazza portaerei, ovvero il nostro Dongfeng. E lo scenario cambierebbe significativamente, però è chiaro che si pensa anche alle contromisure. Le portaerei sono generalmente le più grandi unità tenute in funzione dalle marine militari odierne. Una portaerei classe Nimitz alimentata da 2 reattori nucleari e 4 turbine a vapore è lunga 333 metri e costa circa 5 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno 11 portaerei in servizio che costituiscono, con una forza che non ha eguali nel mondo, la pietra angolare della loro proiezione del potere. Negli ultimi 30 anni sono state protagoniste durante la guerra delle Falklands, quando il Regno Unito vinse un conflitto distante 13.000 km dalle proprie acque, in gran parte grazie all'uso delle portaerei. Gli Stati Uniti hanno utilizzato le portaerei nella guerra del Golfo, in Afghanistan, e per proteggere i propri interessi nell'Oceano Pacifico. Nell'invasione dell'Iraq, le portaerei sono state la base principale della potenza aerea americana. Arriviamo ora a parlare delle contromisure. Prima però vorrei chiederti quanta relazione c'è tra il fatto che la Cina proprio quest'estate sia ufficialmente diventata la seconda potenza economica mondiale, superando il Giappone, quindi mettendosi all'inseguimento degli Stati Uniti, e l'emergere di armi sofisticate. Ovvero, è ovvio che le armi costano moltissimo, ma c'è un elemento tecnologico che probabilmente va ben oltre la cessione, la vendita di armi. Diciamo che, come sempre, la tecnologia militare è all'avanguardia rispetto alla tecnologia civile, in quasi tutti i settori, in alcuni no, per esempio telefoni cellulari, se vogliamo, ecco, lì è più avanti il civile. E quindi investire in tecnologia per la difesa è una priorità per qualunque grande potenza, anche perché poi procurarsi questa tecnologia è difficile, perché non te la vendono quella di punta, o te la vendono senza poi lasciarti imparare come usarla, questo è tipico dei prodotti americani, o non te la fanno fabbricare a te, e quindi la Cina è specialista per cercare di fare dei salti, cioè pur spendendo una barcata di soldi, ma sempre meno degli americani, teniamo anche conto però che i costi sono inferiori, per accorciare i tempi del rinseguimento tecnologico se la procura come può, compra in Russia, la ruba con lo spionaggio, fa di tutto per colmare il gap. C'è da dire che anche la modernizzazione delle forze armate cinesi, essendo talmente enormi e ancora per lungo tempo basati sui concetti di massa e quantità piuttosto che su qualità, richiederà molto tempo. E su questo però i cinesi non si preoccupano, perché loro ragionano con i tempi cinesi, per loro 20 anni è relativamente poco, per noi è tanto. C'è un diverso modo di calcolare il tempo e quindi i piani strategici, però è chiaro che la Cina nel medio termine diventerà quel global competitor che gli americani sapevano sarebbe nato dopo la fine dell'Unione Sovietica, ma non sapevano né dove né chi sarebbe stato. Ebbene, è l'India, è sicuramente la Cina. La Cina si è svegliata dunque anche su questo fronte. Napoleone viene citato tante volte quando si parla di Cina, l'economia ormai è un punto fermo. Per quanto riguarda la difesa, l'armamento, quanta distanza c'è oggi tra gli Stati Uniti e l'esercito della Repubblica Popolare Cinese? Molto ampia, perché gli Stati Uniti hanno un vantaggio su tutto il resto del mondo, compresa l'Europa, marcato. In alcuni settori è quasi abissale. Tuttavia, piano piano i cinesi vanno avanti, anche perché c'è un processo di banalizzazione della tecnologia, anche militare, per cui quello che prima era impossibile adesso è già più affordable, e quindi gli Stati Uniti continuano ad investire per mantenere la leadership. Per adesso ce l'hanno, sia in quantità sia in qualità. Un pezzettino viene eroso ogni anno, è il rapporto che il Pentagono produce, che fa sempre incavolare moltissimo i dirigenti di Pechino, lo testimonia puntualmente, anche perché la Cina continua a aumentare il suo bilancio della difesa a ritmi di circa il 10% all'anno, e quindi con questo tipo di investimenti i risultati prima o poi si ottengono. Però per ora, diciamo, gli Stati Uniti hanno una leadership non contestabile, almeno a livello qualitativo. Il Pentagono proprio un paio di giorni fa ha annunciato che Stati Uniti e Cina hanno ripreso, o meglio riprenderanno, il loro dialogo sulle questioni militari. I rapporti erano stati proprio interrotti dalla Cina dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato in gennaio di quest'anno forniture di armi a Taiwan per un valore di 6,4 miliardi di dollari. Cifre impressionanti e anche naturalmente segnali politici molto fermi. Come mai, a tuo avviso, riprende ora il dialogo? Sono schermaglie, diciamo, diplomatico-militari o c'è un segnale dietro questa notizia? È sempre un andamento, diciamo, tipo quello di un pendolo, si va in su e in giù. È chiaro che è meglio che per tutti e due mantenere i contatti, cercare di conoscersi, abbassare la soglia di diffidenza e di contrasto, ma vedete che i contrasti più grossi sono in realtà a livello economico, quello che conta adesso direi forse è la rivalutazione del renminbi cinese, perché questo conta veramente per gli Stati Uniti. Ma dal punto di vista militare è chiaro che loro hanno un impegno con Taiwan, il pacchetto famoso era stato tra l'altro deciso da Bush, e vedete, da passare dalla promessa di dare le armi a Taiwan alla realizzazione del progetto ci passano anni, cioè ci vanno con cautela anche gli americani, perché non vogliono fare inferocire i cinesi. I cinesi urlano, ma sanno bene che il tipo di armi che Taiwan acquista non è poi così micidiale. Insomma, non è certo il Dongfeng di cui parliamo. In conclusione, Andrea Nativi, reazione americana. Gli Stati Uniti non resteranno fermi di fronte all'affermarsi di un'arma che mette appunto in discussione potenzialmente il suo ruolo nel Mar della Cina. Allora, ci sono vari tipi di risposta, noi concentriamoci solo su quelle militari. Allora, la risposta più ovvia sarebbe quello di tanto cambiare il modo in cui si usano le portaerei, e lo faranno, poi potenziarne le difese, perché vedete, quello che i cinesi vogliono usare è un missile balistico. Ora, gli Stati Uniti stanno spendendo un fracco di soldi, e ormai ce li hanno operativi, per sviluppare dei sistemi di difesa antimissile balistico basati su unità navali. Ebbene, queste unità navali per adesso dovevano colpire i missili lanciati da terra contro terra, tipo Corea del Nord verso il Giappone o Iran verso l'Europa, per fare due casi. Ma nulla vieta che cerchino invece di intercettare i famosi missili antiportaerei cinesi, perché queste navi fanno parte della scorta del battle group della portaerei americana. Questa quindi è una difesa attiva, ma si può fare un'altra cosa. Una volta che iniziano questi attacchi, si può cercare di spegnere il sistema di comando e controllo che consente ai cinesi di scoprire dove stanno le portaerei e dirigere gli attacchi. Quindi intendo satelliti e sistemi elettronici. E anche i satelliti nello spazio sono vulnerabili ai sistemi americani. Quindi le contromisure, come sempre esiste nell'arte militare, per ogni miglioramento dell'offesa ci può essere, o c'è, un miglioramento della difesa. E tra l'altro l'attacco con i missili balistici alle navi non è che concettualmente sia una novità. I sovietici non l'avevano mai pensato, perché ritenevano di usare missili da crociera, sottomarini, missili lanciati da nave e bombardieri. Non è che non avessero valutato anche questa opzione. Andrea Nativi, il nostro ospite di questa sera, che ringrazio per essere stato con noi, ringrazio voi cari ascoltatori, Daniele Terruzzi in regia. Naturalmente vi ricordo come sempre www.radio24.it per sentire e risentire questo e tutti i programmi di Radio 24. Un saluto e un ottimo fine settimana.